Anche nel giorno del suo 83esimo compleanno, Giorgio Napolitano non rinuncia a rivolgersi alle forze politiche con un nuovo appello al dialogo. Auspico un clima più sereno e costruttivo nella politica italiana e nella vita istituzionale, ha ripetuto oggi il capo dello Stato, che si trova a Capri con la moglie Clio ed alcuni amici. Parole che arrivano mentre fra maggioranza e opposizione il clima è rovente dopo il duro attacco rivolto ieri da Di Pietro a Berlusconi, che per i leader dell'Italia dei Valori farebbe più un lavoro da protettore di veline che da statista. Immediata la replica della maggioranza, che parla di linguaggio da osteria, mentre l'avvocato del premier Ghedini annuncia querele. Ma a puntare il dito verso il cavaliere oggi è anche Walter Veltroni. Ora basta, il dialogo è finito, minaccia il leader del Partito Democratico, secondo il quale, mentre l'Italia vive la crisi più drammatica dal dopoguerra in poi, Berlusconi prende in giro i cittadini e si occupa solo dei suoi affari personali. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.